Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata, l'ultima della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Le borse oggi in netto recupero: Milano più 1,85%, Londra, perché cito Londra adesso lo capirete, più 1,5%, Londra la terza borsa questa settimana che si blocca. Milano si è bloccata fino alle 15.30, ricorderete, a inizio settimana. Poi è stata la volta ieri di Parigi, un blocco obiettivamente più ridotto, 40 minuti. Oggi Londra invece ha avuto una via di mezzo, nel senso che la borsa è rimasta sospesa anche qui per un guasto tecnico fino alle 13.30. La piattaforma tecnologica di Londra e quella di Milano fanno parte della stessa piattaforma. Anche qui si parla di guasto tecnico, anche qui obiettivamente ci dobbiamo arrendere, non riuscendo a capire molto di più. Strano però che tre borse, di cui due nella stessa piattaforma, Londra e Milano, una invece che non c'entra, che è Parigi, ma insomma si blocchino tutte nella stessa settimana, una settimana di sfortuna evidentemente, mettiamola così. I titoli: molto bene Telecom Italia dopo i conti, più 5,35%, Buzzi Unicem più 5,20%, Bulgari più 3,70%, Saipem più 3,20%, Ansaldo più 3% come Mediobanca e Generali. Il 2,70 lo guadagna Luxottica e anche Mediaset, il 2,5 Tods e il Monte dei Paschi, il 2,20 al rialzo di Pirelli, Lottomatica e Intesa San Paolo. Fronte opposto è nel Green Power, meno 1,30%, è l'unico titolo che cede qualcosa, debole Terna, ma insomma in rialzo, più 0,12%, l'euro si è rafforzato a quota 1,3742. Nei confronti del dollaro. Di cosa ci occuperemo oggi come cronaca di questa giornata? Da un lato del rapporto tra piccole imprese, piccole e medie imprese e il mondo del credito, perché oggi è stato siglato un accordo importante tra Rete Imprese per l'Italia e quindi artigiani, commercianti, piccolissimi imprenditori e Intesa San Paolo. Il gruppo bancario ha messo a disposizione 5 miliardi di euro, poi ascolteremo anche quali sono gli obiettivi del finanziamento. Poi la borsa come sempre e anche la prospettiva del mercato immobiliare. Infine nella seconda parte del programma ci occuperemo dei costi della politica. Non vi arrabbiate subito, ma è uscito oggi uno studio della UIL con cifre spaventose nella loro ampiezza, perché la UIL stima in 1.300.000 le persone in Italia che vivono di politica, quindi sarebbe uno dei primi settori produttivi di questo paese, ammesso che sia produttivo come settore. E poi con costi sommando i costi diretti 18,3 miliardi e i costi derivanti da un sovrabbondante sistema istituzionale, questa la capisco meno, comunque sono altri 6 miliardi e mezzo, si arriva alla cifra di quasi 25 miliardi di euro. Politica vuol dire non solo Roma, ma anche le regioni, le province, i comuni. Pari a 646 euro per ogni contribuente, non per ogni italiano, ma per ogni contribuente. Ancora negli ultimi 10 anni, dice sempre la UIL, la politica ha aumentato i suoi costi del 40% contro redditi dei lavoratori che sono aumentati di poco più del 20%, e nessun altro paese europeo si è avuto un incremento di questo spessore. E visto che siamo terribilmente populisti, racconteremo nel frattempo quali tagli vengono operati anche alle strutture sanitarie per i più deboli dalla politica stessa. Lo so, ormai questa è la piega. Per quello che riguarda il settore fotovoltaico ci sono arrivati molti messaggi, abbiamo anche un'inchiesta, vediamo se ce la facciamo mandare in onda oggi, su quello che è successo nel business dell'eolico più che del fotovoltaico, con anche alcune inchieste della magistratura. Comunque andiamo con ordine: 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Volete sapere anche di New York? Avete ragione, più 0,50% l'America, Francoforte più 0,80%, diciamo Parigi più 1,70%, Londra più 1,50%. Per quello che riguarda le materie prime, l'oro è in rialzo, poco però oggi, $1,406 l'oncia. E ancora il petrolio invece ha aperto in leggero calo a New York, $97, attenzione, New York non è la quota, è il WTI, non il Brent. Brent infatti viaggia sopra i $100 al barile, però il motivo di questo calo è dovuto al fatto che l'Arabia Saudita abbia annunciato oggi un aumento della propria produzione di petrolio di 700.000 barili, che non vanno a colmare la produzione libica, chiaramente, perché la produzione libica è intorno al 1.800.000 barili al giorno, però insomma sono quasi la metà. Uno dei membri dei comitati della coalizione che controllano Bengasi nel frattempo ha detto che manterranno le forniture di petrolio, però alla pompa l'effetto Libia si fa già sentire con una rapidità incredibile, mamma mia. Perché dunque il market leader, che è Eni, ha fatto un maxi aumento per la benzina e per il diesel, 2 centesimi in più sulla benzina e sul diesel, ma a ruota chiaramente anche Esso e Kuwait hanno aumentato entrambi i prodotti di 1 centesimo, e la benzina al sud Italia in molti distributori ha superato anche il record del 2008, quando il petrolio arrivò, ricordate, a $140 al barile. E per la precisione viene venduta a 1,565 euro. E qui io lancio un interrogativo che so che cadrà nel vuoto: come mai siamo arrivati al sud, soprattutto ai prezzi di benzina del 2008, quando il petrolio valeva $149 per la precisione? Erano con il cambio di allora 1,58 euro, conosco già l'obiezione, l'euro era più forte. No, un attimo. Con il cambio a 1,58 euro sul dollaro, praticamente voleva dire 94 euro. I $149 del 2008 al barile valevano 94 euro allora. Adesso il petrolio vale circa $102-103, che vogliono dire 72 euro al barile, eppure la benzina è al livello di quasi due anni e mezzo fa. Questo utilizzando il cambio di oggi, che è 1,38 euro, e il cambio di allora, che era 1,58 euro il rapporto euro-dollaro. Per cui insomma, non c'è motivo, nemmeno guardando il rapporto di cambio euro-dollaro, ripeto, in valore di euro adesso costa 72 euro al barile, allora costava 94 euro al barile, eppure adesso la benzina costa come allora. E la Federazione dei Distributori di Benzina, che aderisce a Confcommercio, annuncia per i prossimi giorni un ulteriore incremento tra 1,5 centesimi al litro per il gasolio e 2 centesimi per la benzina. Le ire dei consumatori arriveranno a stangata da 210 euro a famiglia, e per i tir in un anno il pieno aumenterà di 127 euro, ossia quasi il 22%. Cresce in Germania l'inflazione, un balzo oltre il previsto al 2,2%, è il massimo da ottobre 2008. La Germania come economia è già uscita completamente dalla crisi, ed è chiaro che ci sia una spinta anche sui prezzi. Vola nel frattempo l'utile della Volkswagen, batte ogni attesa. Nel 2010 la Volkswagen ha registrato praticamente un utile netto, pensate, di 6 miliardi e 840 milioni di euro, quasi come un gruppo petrolifero, contro i 960 milioni di utile del 2009, e anche gli analisti si attendevano 5 miliardi di utile, ha battuto anche gli analisti, 6 miliardi e 800 milioni. Del milleproroghe non parliamo, comunque la Camera ha votato la fiducia al governo sul maxi emendamento, domani torna il provvedimento al Senato, eliminati alcuni elementi però importanti, perché ci eravamo concentrati anche su quelli: il blocco fino al 31 dicembre dell'abolizione degli immobili abusivi in Campania, anche se costruiti in aree sottoposte ai vincoli paesaggistici, è stato eliminato su questo, ancora per quello che riguarda le alcune degli elementi presenti in questo mille proroghe, per fortuna sono spariti. Per esempio la norma che riportava da 15 a 12 il numero massimo di assessori in città, oltre le città oltre 1 milione di abitanti, eliminato. La disposizione che introduceva dei vincoli territoriali per gli insegnanti precari, anche questa eliminata. Ma insomma, questi tre elementi, già avere eliminato il blocco dell'abbattimento degli edifici abusivi in campagna, in aree protette, e la norma che portava da 15 a, da 12 a 15 il numero massimo di assessori, ci sembra un buon motivo per festeggiare, visto che poi ci prenderemo una bella bile con i costi della politica, le campane. Ancora l'ultima notizia prima di passare al primo tema di approfondimento, i dipendenti della Vins, perché cresce la protesta per i lavoratori, dei lavoratori per la mancata conclusione nei termini previsti dell'accordo Eni Gita per rilanciare lo stabilimento anche di Marghera. Si sono due operai sono saliti su una ciminiera a Marghera e hanno, se si può dire così, inaugurato un nuovo presidio, tenendo uno striscione con la scritta Romani, Eni, vogliamo i fatti. Nel frattempo continuano a protestare i dipendenti della Vinyls Sarda, quelli che da un anno vivono a Lasinara, nell'isola dei cassi integrati. Valeria De Rosa, la nostra Valeria De Rosa, ha raggiunto uno di loro, l'argentino Tellini. La nostra posizione è di grandissima preoccupazione, questo l'avevamo capito già da quando siamo saliti, perché anche io e altri due miei colleghi siamo saliti sulla torre esattamente 15 giorni fa a oggi. Infatti non a caso il ministro aveva detto 15 giorni da quella data lì, poi sono saliti anche quelli di Porto Marghera e di Ravenna sopra la torre. E certo, la preoccupazione è tanta, perché noi siamo saliti appunto perché le trattative andavano secondo noi a rilento, segnali positivi di un'accelerazione non ce ne sono stati. Oramai le diverse date sono saltate, quindi aspettiamo questi due giorni, ma non penso che in questi due giorni si possa, visto che è sabato e domenica, quindi da lunedì noi ci prepareremo anche come operai sardi a fare un'ulteriore mobilitazione. Noi abbiamo due presidi, uno è quello della Sinara e l'altro è dentro una torre aragonese del 1300, noi siamo anche da più di un anno lì. In bocca al lupo agli operai anche della Vinyls. Adesso però parliamo di un'iniziativa che dovrebbe aiutare, se ben utilizzata, anche a migliorare le condizioni delle piccole imprese, artigiani e commercianti, quindi anche i livelli occupazionali. 5 miliardi di euro infatti è quello che il gruppo Intesa San Paolo ha messo a disposizione a Rete Imprese per Italia, che è l'associazione che ha riunito Confcommercio, Confartigianato, CNA, Confesercenti. Le imprese potenzialmente interessate sono 2.600.000 e impiegano oltre 11 milioni di addetti, ossia il 60% della forza lavoro in Italia. Allora, che cosa fornisce questo accordo alle imprese? Lo ha spiegato lo stesso numero uno di Intesa San Paolo, Corrado Passera, al nostro Vincenzo Miglietta. Non è moratoria, ecco, cioè la moratoria è un processo, è un accordo che va avanti e che è stato ulteriormente articolato nell'ultimo accordo. Qui sono proprio 5 miliardi in più per finanziare crescita, per finanziare le aziende che si sono rimesse in moto, che hanno magari problemi di liquidità, ma hanno anche voglia di fare investimenti. Quindi questo è un accordo che si somma a quello della moratoria che negli anni scorsi Sistema Italia ha saputo mettere insieme, uno, forse l'unico caso nei paesi occidentali, e che ha permesso di parare il colpo della crisi in maniera efficace. C- così Corrado Passera. Sentiamo però anche il giudizio della controparte, quindi il presidente di Rete Imprese per Italia, Giorgio Guerrini, a cui sempre il nostro Vincenzo Mineta ha chiesto innanzitutto quale si è un po' migliorato lo stato dei rapporti tra banche e piccole imprese, delicatissimo, molto critico, soprattutto nel 2009, nel momento peggiore della crisi. È un rapporto che è fortunatamente migliorato nel corso di questi ultimi due anni. Noi abbiamo toccato il fondo con l'inizio della crisi fino a quando non è stato firmato l'accordo sulla moratoria dei mutui, e questo era il luglio del 2009. Da oggi fortunatamente i rapporti tra banca e imprese sono migliorati. Non sono ottimali perché ancora abbiamo bisogno di fare molta strada, però l'iniziativa di oggi tra Rete Imprese Italia e Banca Intesa è un'iniziativa che va nella direzione giusta, avvicina questi due mondi che hanno tutto l'interesse di stare insieme, perché facilita il rapporto attraverso il collegamento territoriale. È anche per noi un motivo di orgoglio, perché noi abbiamo sostenuto anche negli anni in cui le banche avevano altri fini che la banca di territorio, essere vicini alle imprese e alle famiglie, era la scelta vincente. Mi sembra che questa crisi ha dimostrato che questa filosofia era quella giusta. Il riorientamento anche di grossi gruppi come Banca Intesa e Unicredit per primi al territorio è, credo, la dimostrazione che per fare banca, come per sviluppare politiche positive, bisogna andare alle cose concrete, bisogna stare vicino alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Speriamo che venga utilizzato il più possibile questo accordo oggi annunciato. Nel frattempo, per quello che riguarda invece i temi che adesso toccheremo, anzi io passerò sui conti Telecom, ve lo faccio ascoltare dopo quando c'è il GR. Vorrei adesso passare a un altro tema. Come avevamo annunciato, non ci abbiamo fatto a martedì e mandare in onda la nostra inchiesta sull'eolico, però molti di voi ci hanno scritto chiedendo, insomma, quando è che parlerete del business dell'eolico, che è sicuramente un business importante, le fonti alternative, il progetto 20-20-20 anche a livello europeo, però memori di una frase detta dal ministro Tremonti, ossia l'eolico è uno degli affari di corruzione più grandi mai esistiti. E intorno agli investimenti sull'eolico sono fiorite in questi ultimi mesi proprio le inchieste. Eh sì, e se ne è occupata più di una volta la nostra Raffaella Calandra, anche all'interno del suo programma Storiacce, che vi ricordo è in onda il sabato dalle 13.15 in poi. Abbiamo chiesto a Raffaella Calandra di fare il punto sulle inchieste sull'eolico, visto che poi se ne parla molto in questo periodo, e tracciare anche il quadro di quelli che sono i capi di imputazione in un business che dovrebbe essere il più pulito, se vogliamo, esistente in Italia in questo momento. Il vento soffia soprattutto da Roma in giù. Girano le pale eoliche e insieme all'energia girano non solo gli affari puliti, ma anche le carte bollate dei tribunali in un far west di leggi, richieste fantasiose e scorciatoie. L'eolico è uno degli affari di corruzione più grandi, ha sentenziato il ministro dell'economia Giulio Tremonti, che si è fatto una domanda: perché in Italia non ci sono i mulini a vento? In compenso sono fioriti gli aerogeneratori per catturare ogni libeccio o tramontana. A fine 2009 gli impianti in Italia sono 294, per una potenza, calcola il gestore dei servizi energetici, di 4.898 megawatt. Siamo il paese dove il vento ha soffiato più forte, visto che la crescita è superiore alla media sia europea che internazionale. È la Puglia la regione con il maggior numero di impianti, 72, seguita da Campania, Sicilia e Sardegna. Se in Sardegna il movimento delle pale ha contribuito a diradare le nebbie sulla presunta nuova P2, in Campania il dio Eolo ha spalancato i cancelli del carcere per il presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito. Via col vento, la Guardia di Finanza ha ribattezzato questa operazione il colonnello Mario Imparato del nucleo tributario. Quello che è emerso principalmente è proprio la truffa al fine dell'indebito percepimento di questi contributi. Viene dato il contributo con la connivenza magari di qualche ingranaggio del Ministero dello Sviluppo, è stato anche denunciato un funzionario di una società a cui viene appaltato al seguire tutta la pratica. Abbiamo trovato un totale di 9 società collegate fra di loro, peraltro avente sedi tutte quante nello stesso indirizzo, che hanno costituito parchi eolici in Sardegna, 1, 2 a Ploaghe e principalmente in Sicilia. Uno schema di scatole cinesi di società, secondo l'accusa, che getta un ponte fino in Sicilia, dove beni per 1,5 miliardi di euro sono stati sequestrati al signore del vento, Vito Nicastri, vicino al super latitante Messina Denaro, rivela il Viminale. Abbandonata l'edilizia, l'eolico è il nuovo business della mafia, commenta Francesco Messineo, procuratore capo di Palermo. Il patrimonio enorme che vede 63 società di capitale. I segnali degli interessi della mafia si erano mostrati già secondo il consueto codice. L'incendio, ad esempio, nel Trapanese di un camion che trasportava pale. Almeno 3 poi i fascicoli a Catanzaro che chiamano in causa le linee guida regionali. Nell'inchiesta principale sono coinvolti ex amministratori e faccendieri dietro il sospetto di una tangente da 2 milioni. Al fascicolo ha lavorato anche l'allora PM di Paola, Eugenio Facciolla. C'erano interessi da parte di imprenditori rampanti che trovavano sponda poi in politici locali. È un affare che ruota molto attraverso le convenzioni con i vari comuni che sono sul territorio e che poi vengono rivendute le multinazionali dell'energia. Siccome è una procedura complessa, se si riesce ad avere dal punto di vista politico una sorta di lascia passare, chi ottiene il famoso certificato verde, il contratto per realizzare l'insediamento, poi sul territorio deve operare attraverso imprese locali. C'erano pressioni per attenuare le limitazioni per la costruzione degli impianti? Ogni intervento di questo tipo passa attraverso quello che viene definito come piano eolico regionale. Non si poteva ad esempio costruire a ridosso del litorale, erano le cosiddette zone di protezione speciale. Di punta in bianco questo piano eolico cambia radicalmente, per cui si viene a dare la possibilità di posizionare queste torri un po' dovunque. Pioggia di finanziamenti europei mista a un diluvio di leggi regionali. Per i ladri di vento le condizioni da Roma in giù sono ottimali, col paradosso che restano fermi fino a 7 anni, come è successo in Molise, i progetti trasparenti. È la Puglia l'Eldorado delle rinnovabili, 1151 i megawatt effettivi a fine 2009, un'esplosione favorita dalla legge regionale del 2008 dichiarata incostituzionale a marzo. Il procuratore capo di Bari, Antonio Laudato. L'interferenza di tipo criminale può essere a livello individuale, imprenditoriale, societario o può essere da parte della criminalità organizzata. Questa delle energie rinnovabili è il business del futuro. Folla di reati in una giungla di leggi, un quadro che se favorisce i furbetti rischia di allontanare gli imprenditori seri, increduli talvolta di fronte alle cosiddette tangenti comunali. Le elenca l'avvocato Francesco Prato dello studio Bonelli Erede Pappalardo. Un comune pugliese, l'acquisto di 2 auto per la polizia locale di un defibrillatore. Che con l'impianto eolico non c'entrano molto. Assolutamente nulla. I comuni lo chiedono alle imprese come compensazione dal disagio per la costruzione di queste pale eoliche? Sì, ci sono anche delle richieste che sono un po' borderline. Il comune chiedeva una somma, una tantum di 150.000 euro. Tuttavia era prevista la facoltà per il comune di chiedere alla società l'assunzione di personale indicato. Attualmente sono 11 gli impianti fermi in attesa di sentenza del TAR o del Consiglio di Stato, secondo i dati di Italia Nostra. Ancor più gravi sono i danni per gli impianti bloccati da Terna, analizza Simona Viola, avvocato dell'Associazione per le Energie Rinnovabili. Quasi il 30% dell'energia eolica potenzialmente producibile in Italia non viene dispacciata, cioè gli impianti vengono fermati perché risulta insufficientemente capiente la rete di trasmissione nazionale gestita da Terna, che non è stata capace in questi anni di osservare il ritmo di crescita delle rinnovabili. Quel che è certo è che in Italia il vento soffia e fa sempre il suo giro. Grazie alla nostra Raffaella Calandra, perché chiaramente siamo a disposizione anche di Terna per capire quest'ultimo aspetto più tecnico, cioè Terna che gestisce la rete elettrica sembra non aver adeguato a sufficienza la rete da reggere, l'energia prodotta dall'eolico, e questa diciamo in qualche modo è un'altra disfunzione, quasi un'altra beffa. Ma la cosa che fa più girare le pale dell'eolico, e non solo dell'eolico, anche del conduttore, è il fatto che obiettivamente il business delle energie rinnovabili è il business del futuro, ma lo è anche per la criminalità organizzata. E poi con i comuni, perché poi arriveremo alle 18:15 ai costi della politica, ma insomma che i comuni chiedano delle compensazioni si fa da sempre, quando si costruisce un'autostrada, quando si costruisce un'infrastruttura di qualunque genere, che ne usino queste compensazioni per indicare anche chi deve essere assunto o mettere dentro acquisti che poco hanno a che fare con le fonti rinnovabili, beh, questo meno. Andiamo in meteo, pubblicità, poi la borsa, i conti anche di Telecom, l'effetto sulla borsa e poi i costi della politica. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti. Allora, dalle pale che girano dell'eolico alla borsa invece, e a quello che è successo, che sta succedendo veramente, non sappiamo, lo confesso, non sappiamo che dirvi. Abbiamo avuto l'amministratore delegato della Borsa Italiana in diretta quando la borsa si è bloccata per fino alle 3:30, la Borsa Italiana, e ci ha detto problema tecnico, no? È sembrato così un po' grave come problema tecnico. In realtà bisogna ammettere che ieri si è bloccata a Parigi per 40 minuti, oggi si è bloccata a Londra per un tempo ben più lungo, cioè fino all'1:30. Londra e Milano lavorano sulla stessa piattaforma, sono borse integrate. Comunque la borsa, vediamo che non si blocchi anche la nostra sigla. Come sempre con Radio Cori, il Sole 24 Ore. Bene oggi Milano, più 1,80%, meglio di Francoforte, più 0,70%, meglio dell'America che guadagna lo 0,35%, e anche di Londra che guadagna l'1,20%, Parigi simile, ma resta Milano la più forte, più 1,5%, euro vicino a quota 1,38, 1,3760 in questo momento, oro poco mosso, petrolio in leggerissimo calo dopo l'annuncio dell'Arabia Saudita che immetterà sul mercato 800.000 barili di petrolio al giorno in più, contro il 1.8 milioni che produce l'Algeria, la Libia. I titoli, Enel Green Power è l'unica negativa, meno 1,20%, molto bene invece in primo luogo Buzzi Unicem, più 5,27%, e poi Telecom Italia. Ciao Conni, la Radio Cori sul 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, partiamo da Buzzi Unicem e del settore costruzioni. Sì, oggi tutto il settore costruzione è andato bene in Italia e anche in Europa, fondamentalmente un rimbalzo dopo i forti ribassi dei giorni scorsi. Dal 16 febbraio Buzzi aveva perso il 9%, Italcementi l'8%, oggi come dicevamo gli operatori evidentemente hanno visto questi titoli convenienti e hanno deciso di riacquistarli facendosi trascinare un po' dell'entusiasmo delle borse, con Milano che è stata la migliore. Nel caso di Italcementi, poi, che ha chiuso in forte rialzo, c'è stata anche la cessione di parte dell'attività in Turchia per 290 milioni di euro. E poi un argomento che su cui già molti ascoltatori ci interrogano, mi riferisco a Telecom, ai conti Telecom. Il numero per gli sms resta 349-238-6666. Telecom ieri ha diffuso i dati e ha raddoppiato l'utile netto, che è arrivato a 3 miliardi e 100 milioni di euro, più 97%. Rispetto al 2009, tra l'altro questo è dovuto sia all'impatto positivo sull'acquisizione del controllo della business unit argentina e al beneficio anche di imposte differite dal Brasile. Cos'è che ha entusiasmato la borsa, visto che il titolo oggi non solo è cresciuto del 5,1%, ma ha superato la soglia tecnica dell'euro già ieri, insomma 1,08 euro 1,1 la chiusura. Sì, oggi addirittura sopra 1,1. Beh, oltre all'utile c'è anche il dividendo in forte crescita, ma poi ci sono anche diciamo i piani per il futuro che sono stati annunciati dalla società, con l'indebitamento che diciamo dagli osservatori è sempre stato considerato il tallone d'Achille di Telecom, che viene previsto sotto i 30 miliardi di euro, e dividendi che dovrebbero crescere addirittura del 15% all'anno. Bene, questi sono due elementi particolarmente interessanti che hanno insomma spinto agli acquisti. Avanti con il resto. E allora, oltre al settore costruzioni, a Telecom Italia, buona, anzi molto bene, Mediobanca, va detto, più 3,80%, la migliore nel mondo bancario. Anche qui i conti pesano in maniera positiva. Sì, diciamo un utile che nel primo semestre, ricordiamo che Mediobanca ha un esercizio sfalsato rispetto agli altri principali gruppi, utili che nel primo semestre hanno toccato quota 236 milioni, il doppio rispetto al semestre precedente. Dunque, analisti diciamo sorpresi in positivo, è un'ottima performance di borsa. Conti da record della Volkswagen oggi, non abbiamo visto tutto questo effetto su Fiat, e poi ci sono anche i conti di Saras e il settore del lusso, questi temi di borsa dopo il traffico. 349-238-6666 per gli sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, insomma, c'è qualcuno che presume che il blocco alle borse di Milano, Parigi e Londra abbia fatto parte del nuovo piano di Al-Zawahiri annunciato oggi, ma insomma mi sembra più problemi tecnici e un po' di sottovalutazione dei problemi, perché Milano si è bloccata fino alle 15.30 tre giorni fa, Parigi ieri fino per 40 minuti, Londra oggi fino a 1:30. Mi sembrano cose molto diverse. Continuiamo con i titoli invece. Per quello che riguarda Fiat, c'è stato un downgrading che ha pesato più della notizia positiva su Volkswagen. Assolutamente, infatti Fiat oggi ha performato decisamente peggio rispetto ai concorrenti in Europa. Ricordiamo giusto due numeri di Volkswagen: ha chiuso con un utile quest'anno di qualcosa come 7,23 miliardi e un fatturato di 127 miliardi di euro. È il punto di riferimento europeo, sicuramente Fiat sta lavorando per avvicinarsi a questo diciamo punto di riferimento, ma oggi la borsa l'ha punita rispetto ai concorrenti. Ancora il lusso, ma com'è che va così bene sto lusso? Io capisco insomma che il dollaro non sia, il rapporto euro-dollaro non sia 1,40-1,42, ma insomma l'euro è sempre 1,37-50, eppure Bulgari più 3,70%, Luxottica più 3,1%. Il lusso ieri e nei giorni scorsi era andato piuttosto male sui cali delle borse, e anche sulle preoccupazioni per la situazione geopolitica, quindi oggi gli operatori parlano soprattutto di un rimbalzo per Bulgari. Ancora Crespi meno 7,70, Digital Brothers meno 7,50, Meridiana meno 7,20, Indesit sulle risparmi non convertibili meno 4,70 e poi Cogeme meno 10%. I migliori invece Vivendi più 7,80, Italcimento abbiamo detto più 7, Unicredito sul risparmio non convertibili più 6,20 e poi Buzzi Unice, Seat pagine gialle più 5,30%, Seat. Ma guarda, in questo caso non ci sono particolari notizie sulla società, è una, diciamo, il flottante è talmente basso che bastano diciamo piccoli ordini d'acquisto per muoverli in un modo o nell'altro. E invece notizie, mi sembra di averne colte, ma tu mi darai conferma su Fondiaria SAI. Allora, Fondiaria SAI oggi ha avuto una giornata un po' altalenante, poi ha chiuso con un più 1,64%. Sì, siamo qui nell'estenuante attesa del verdetto della Corte. Arrivano i francesi, non arrivano i francesi. L'eventuale ingresso diciamo di Groupama in Prema, fine se questo debba o no comportare un OPA su Prema, fine e poi dell'eventuale ingresso in Fondiaria SAI. Oggi la presidente di Fondiaria SAI, Ionella Ligresti, figlia del famoso Salvatore, ha detto che è confidente che tutto andrà per il verso giusto e che i francesi entreranno in Prema, fine che il verdetto avverrà a breve, e quindi insomma Fondiaria diciamo ha replicato fondamentalmente l'andamento dell'indice di borsa. Grazie a Ciro Condine, buon fine settimana a te e a tutti i grazie colleghi del Corriere sulle 24 ore. Oh, è arrivato Fabio. Quello che chiede sempre le mie dimissioni: lei è stanco, si dimetta. Vabbè, domani è sabato, ci riposiamo, speriamo. Invece parliamo di mercato, ma di mercato immobiliare, perché oggi è stata annunciata a Milano un'operazione importante, non solo per il controvalore, 200 milioni di euro, ma anche perché vede la partecipazione di un fondo importantissimo, un fondo pensione americano, è il fondo degli insegnanti americani, e praticamente gestisce, pensate, a livello mondiale 400 miliardi di dollari di investimenti, ed è entrato in un'operazione che ha visto riconsegnare, restaurare, riprogettare nella parte diciamo che torna poi all'origine il Palazzo a Porte a Milano, sono 30.000 metri quadri, verrà domani aperto anche la cittadinanza, presentato oggi a Milano, 200 milioni dicevo l'investimento, e il fondo americano che è il TIAA CREF Global Real Estate è intervenuto in Italia, una volta tanto arrivano i soldi anche degli stranieri, assieme al fondo Montepaschi Heinens Real Estate, consulente operazione Heinens Italia SGR, che tra l'altro sempre a Milano ha un investimento importante a Porta Nuova Garibaldi e in altri due siti, per un totale di 2 miliardi e 3 investiti in queste operazioni immobiliari sulla città. E allora abbiamo raggiunto il numero uno, Manfredi Catella, presidente questo legato di Heinens Italia, a cui abbiamo chiesto in primo luogo delle prospettive del mercato immobiliare, perché insomma è vero che non c'è stato per fortuna il crollo, ma investire soldi in un mercato in cui molti immobiliaristi si sono bruciati a nostro avviso è ancora un rischio. E allora gli abbiamo chiesto insomma quali sono le prospettive che vede sul mattone e sugli investimenti di chi deve fare grandi operazioni immobiliari. Dobbiamo innanzitutto ovviamente essere consapevoli di un paese che ha un'economia che cresce con un prodotto interno lordo, no, praticamente stagnante, qui non c'è un'espansione netta nella parte terziaria né tantomeno nella parte residenziale. La parte residenziale appunto ha le esigenze o di allocazione del risparmio per le fasce più fortunate, oppure di esigenze proprio di giovani coppie, immigrazione e così via. Però ecco, è un mercato che ha sicuramente delle criticità, proprio per quello che diceva lei, nel senso che all'estero ci sono le banche sostanzialmente hanno fatto le svalutazioni e di conseguenza si sono create situazioni di correzione dei prezzi, mentre da noi non si è creato. Quello che sta accadendo è che in qualche modo alcuni dei nostri progetti lo dimostrano, un prodotto di qualità inteso in senso stretto, però in senso anche tecnico, quindi edifici terziari con determinate prestazioni energetiche, nonché residenziali, alla fine attirano la domanda. Questo però provoca che cosa? Provoca un effetto di confronto che non c'è mai stato, certo, in Italia, no? Perché non c'è mai stato la sostituzione dell'ultima generazione, no? È chiaro che se, facendo un esempio, nell'informatica esce l'iPad, no? Tutta la tecnologia precedente si svaluta o addirittura non viene più usata e deve essere sostituita integralmente. Nell'immobiliare italiano questo non è mai successo negli ultimi decenni. Insomma, se lei dovesse suggerire a un suo amico un investimento in un fondo immobiliare in questo momento in Italia, gli direbbe sì, no, forse? Sicuramente il settore immobiliare in questo momento è comunque un settore interessante anche in vista di potenziali riprese dell'inflazione eccetera, quindi il settore rimane secondo me interessante anche a valle poi, se vogliamo, di una crisi che è stata profonda. Il fondo immobiliare in realtà, come al solito, vai a scegliere il gestore e che cosa ti propone nel merito. Il prezzo del mattone lo vede in crescita, in calo, stabile? Lo vedo con dinamiche totalmente opposte, cioè vedo una determinata tipologia di prodotto che può effettivamente avere dei premi anche rilevanti e invece prodotti che si svalutano completamente perché non hanno più la funzione, non hanno più la domanda per cui erano stati pensati. Per esempio, insomma, molti degli edifici degli anni 70, 60, che non hanno il prestigio del palazzo storico, non hanno quelle caratteristiche energetiche di efficienza richieste, che finché non c'è l'alternativa chiaramente si usano. Certo. Nel momento in cui l'alternativa c'è, si crea un tema di riconversione. Quindi paradossalmente tutto questo sviluppo urbanistico della città potrebbe portare in alcuni casi anche a un abbassamento dei prezzi per alcune aree come effetto comparativo? Ne sono convinto, sì. Se lei dovesse dare una definizione molto sintetica della differenza tra un immobiliarista, costruttore e un palazzinaro, dov'è che la colloca? Ci può essere un palazzinaro che fa bene o un immobiliarista che fa male, cioè non lo vedo come terminologia, credo che chi si occupa sul territorio sicuramente ha una responsabilità sociale che deve applicare attraverso l'architettura, l'urbanistica, la tecnologia, il rapporto sociale con i quartieri, con i cittadini, la collaborazione pubblico-privata. Quindi io non credo che sia la definizione, non è tanto quella che definisce la qualità poi di quello che uno fa. Ma se io dicessi che, per concludere, la differenza potrebbe collocarsi tra palazzinaro come colui che costruisce l'edificio immobiliare, non necessariamente una palazzina, è completamente scollegato dal contesto, quindi può venire bene o male, ma questo è semplicemente un caso fortuito, e invece l'immobiliarista diventa un interlocutore, per quanto soggetto privato, e a parità di utile, perché nessuno dei due fa beneficenza, un interlocutore che dialoga con la parte pubblica e con gli altri attori sociali della città? Sicuramente è una sintesi di quello che va fatto, al di là di come ci vogliamo chiamare, però insomma, sicuramente la missione è questa. E allora speriamo di avere più immobiliaristi in questo senso definiti e meno palazzinari, per anche delle vicende degli ultimi anni. Devo dare però una notizia, perché me l'avete fatta notare al 349-238-6666, giusto, i conti di Saras e di Alitalia. Allora, Saras ha chiuso il 2010 in perdita, quindi la raffineria della famiglia Moratti, a 43,9 milioni, più 60% invece i ricavi. La perdita netta di quasi 44 milioni di euro però è comunque in miglioramento del 20% rispetto alla perdita di 54 milioni del 2009. Ancora, all'Italia nel 2010 perdite per 168 milioni di euro, ricavi a 3 miliardi 200 milioni, c'è un progresso di 159 milioni rispetto ai conti dello scorso anno, dell'anno 2009, riferito al 2009, rispetto al risultato netto. Anche i passeggeri dell'Italia aumentano, più 7,5% a quota 23 milioni e 400 mila. Dopo il GR altri dati e soprattutto i costi della politica, lo studio diffuso oggi dal WIL. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. E allora, dopo aver raccontato l'accordo, ripeto, importante, tra Rete Imprese per l'Italia, quindi piccoli commercianti, piccoli artigiani, piccoli imprenditori, Gruppo Intesa San Paolo, 5 miliardi a disposizione, le inchieste della magistratura sul business dell'eolico, inaccettabile, lo so, molti ci stanno scrivendo, ma purtroppo così è, e abbiamo promesso che contatteremo Terna per capire perché invece delle volte chi produce con l'eolico non riesce a immettere questa energia, questa è l'accusa, perlomeno sulla rete, perché ci sarebbe un'incapacità della rete ad accoglierla. La borsa l'abbiamo commentata, ripeto, più 1,80% nel giorno in cui anche Londra si è bloccata per metà giornata fino a luna praticamente di oggi, e in cui molto bene sono andati i titoli legati alle costruzioni, Buzzi Unicem più 5,30, Telecom più 5,1 dopo i conti, e anche Mediobanca più 3,80%. Petrolio poco mosso, molti sono arrabbiati per quello che abbiamo letto in apertura sul petrolio. Beh, vi rifaccio, volete di nuovo il calcolo del rapporto euro-dollaro rispetto al barile, ve lo ridiamo. Allora, dicevo, ve lo ridiamo subito il rapporto. Quando il petrolio toccò i 149 dollari al barile, e mi riferisco al 2008, valeva a quel tempo il rapporto euro-dollaro, era 1,58 euro, quindi volevano dire quei 149 dollari al barile, in realtà 94 euro al barile. Oggi il petrolio vale circa 103-104 dollari al barile. Tradotto in euro, visto che l'euro è a quota 1,38, vuol dire 72 euro, quindi metà 2008 94 euro al barile, adesso 72 euro al barile. Pensate un po', il prezzo della benzina invece è tornato ai livelli del 2008. Misteri! E visto che ci siamo, iniziamo a rovinare il fine settimana agli ascoltatori. Perché? Perché oggi la UIL se n'è uscita con un rapporto sui costi della politica. Vediamo un po'. Molti di voi hanno già scritto, in realtà anche i sindacati dovrebbero dirci quali sono i loro costi, però stiamo sul tema. Il rapporto della UIL dice in sostanza che ci sono 1.300.000 persone che vivono di politica in Italia, costano quasi 25 miliardi di euro l'anno, in realtà somma praticamente 18 miliardi e 3 di costo del sistema politico a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale, con 6 miliardi e mezzo definiti i costi derivanti da una sovrabbondante sistema istituzionale. Praticamente questa cifra vuol dire che ognuno di noi, ogni contribuente, paga 646 euro alla politica. E poi il leader della UIL Angeletti dice che i costi sono aumentati negli ultimi anni del 40% contro stipendi che in maniera scarsa sono arrivati al 20%. E ancora, volete sapere quanti sono gli eletti nel mondo della politica, che non vuol dire che tutti quelli che lavorano nella politica siano stati eletti, sono 145.000 tra parlamentari, ministri e amministratori locali. Professor Nicola Rossi, senatore uscente del PD, cioè uscente sia dal PD che dal Senato, un caso rarissimo, ognuno che decide di andarsene dalla politica, buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Cos'è, sta male? No, assolutamente. Perché con queste cifre che sto per leggere, insomma, sono pochi. No, sto male come contribuente. Ah, ecco, sta male come contribuente, perfetto. No. Allora, senza cadere nel qualunquismo, però io intanto vorrei un primo commento a questi dati, poi dopo il traffico arriviamo anche al ragionamento tra i costi della politica e i tagli che la politica applica invece a altri settori. Ma insomma, il costo di un parlamentare in Italia è di 1.530.000 euro, in Germania è la metà, 860.000 euro, in Francia è uguale, 850, in Gran Bretagna addirittura siamo a un quinto, 340.000, in Spagna 260.000. Quanto costano le Camere, la Camera Bassa per la Camera dei Deputati? 16 euro all'anno per ogni cittadino in Italia, 8 euro in Francia, 6 euro in Germania, 4 euro in Gran Bretagna, 2 euro in Spagna. Al di là dei costi storici, come si direbbe in epoca di federalismo, ma com'è, lei che l'ha vissuta dentro, ma com'è che questi costi continuano a aumentare? Oltre che essere i più alti, continuano anche a salire, più 40% stima la UIL. Professore, mi sente? Abbiamo un problema di collegamento, ecco perché non rispondeva. Allora facciamo una cosa, mando il traffico, è caduta la linea, non lui mem, Nicola Rossi, lo riprendiamo, traffico e poi la risposta alla domanda, 349-238-6666 per gli sms. Allora, 18:15 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni, abbiamo recuperato il professor Nicola Rossi, senatore uscente, esce dalla politica inteso come PD, esce anche dalla politica inteso come Parlamento e Senato in questo caso. Lei si è fatto un'idea del perché continuano ad aumentare i costi? Non voglio essere qualunquista, abbiamo dei costi storicamente alti, ma perché continuano a salire? Senatore? Se non ce la facciamo, o non vuole rispondere alla domanda, o non riusciamo a raggiungerlo. Allora, nel frattempo vi faccio sentire un passaggio sui costi della politica che quindi voi farà ridere e poi invece farà piangere quello che leggo sui costi della politica, anche leggerò sui costi della politica anche a livello regionale, non è solo Roma. Famiglia Abate, un figlio maschio. Un figlio maschio, curiava i soldi che la virga, va nel turbino. Baglietto, un maschio e una femmina. Impiegato al catasto. Di lei ho due maschi. Forestale. Tutte e due forestali. Ma onorevole, cosa sta facendo? Sì, vabbè, sì, famiglia Foti, due figli e femmine infermiere. Purtroppamente la battaglia per l'occupazione passa attraverso l'assunzione dei figli dei miei elettori. Ah, non è regolarissimo. Tu mi voti, ti trovo un lavoro e ti sistemo. Lo bianco, tre maschi. Tu all'ANAS, un emigre. Famiglia Zimbora, un figlio maschio. Ma non è suo. No, scusi. Entrerà in politica. No. Allora, della serie Le interviste impossibili, stiamo cercando Nicola Rossi. Intanto vi leggo, no, sorrido per non piangere, vi leggo cosa è successo nel Lazio. Non ce l'abbiamo con Lazio in questo periodo, però da lì arrivano molte notizie interessanti. Allora, commissioni speciali del Consiglio regionale del Lazio, almeno il doppio rispetto alla media delle altre regioni. Sono infatti 20 le commissioni speciali del Consiglio regionale del Lazio contro una media di 8 regioni. Siccome abbiamo recuperato Nicola Rossi, non vorrei ripeterlo. Professore, mi sente adesso? Sì, la sento, ecco. Mi scuso con gli ascoltatori. No, no, sì. Tanto i dati sono così tanti che ne ho una marea. Mi dice perché sono aumentati i costi della politica al di là dei costi storici, perché più 40% in 10 anni? Perché credo che la politica sia del tutto incapace di fare passi indietro anche quando potrebbe farli. Per raccontare solo un aneddoto, io mi sono permesso di proporre in Parlamento che i consigli provinciali delle province venissero sostituiti dai sindaci dei paesi facenti parte delle singole province. Mi è stato detto che questo avrebbe costituito un vulnus per la democrazia nel nostro paese. Questo chiaramente segnala, diciamo, come la politica veramente sia vorace, tenda ad occupare tutti gli spazi che trova davanti. Ecco, dei costi a cui io facevo riferimento, in realtà c'è chi obietta, potrebbero essere più alti, perché non ci sono solo i costi diretti della politica, dei 150.000 eletti, di chi lavora nella politica, ci sono, mi passi il termine, anche i costi dei trombati, ossia di quei politici che, non venendo eletti, vengono messi nelle commissioni, delle aziende, nei consigli delle aziende partecipate. Lei è d'accordo? Municipali? Sì, assolutamente. Io potrei fare molti esempi di enti che vengono costituiti solo perché a un certo punto bisogna dare una continuità di occupazione, per così dire, diciamo, ad una parte. No. Pronto? Sì, la sento. Sì, diciamo, ecco, quello che io credo irriti molto gli italiani e certamente i contribuenti è che è il rapporto fra il costo e l'efficacia. Noi ci lamentiamo ogni giorno che la politica italiana non fa quello che dovrebbe, non si occupa dei problemi di cui si dovrebbe occupare, ed è questo che rende questa sproporzione facilmente, diciamo, non tollerabile. Su questo a me sembra, e ripeto, non per fare del populismo, che i costi della politica, e ne abbiamo un esempio anche nel passato, diventino insopportabili, a maggior ragione, quando poi la politica stessa a chiedere dei tagli. Abbiamo raccontato in Lazio la chiusura, il rischio di chiusura per l'ospedale Santa Lucia di Roma, specializzato in riabilitazione neuromotoria per adulti e bambini. Il 31 dicembre ha cessato l'attività il centro di ippoterapia della Onlus Auriga di Prima Porta, 40 ragazzi disabili senza una terapia che funziona molto, quella con il cavallo. A Torino rischia di chiudere il centro di riabilitazione psichiatrica in via Spalato, 300 bambini. E nel frattempo raccontiamo il Pio Albergo Trivulzio e il Policlinico. Secondo lei, lo dico col massimo rispetto, professor Rossi, o senatore, visto che lo è ancora, come mai non vi rendete conto di quanto vicini si stia arrivando al punto di non sopportazione? Io credo che molti di noi, diciamo, se ne rendano conto. L'esempio che io facevo di quella proposta fatta in commissione segnala che qualcuno certamente se ne rende conto. Il punto è che la politica ha messo in piedi una macchina, e adesso riprendiamo, sarà un'intervista di quelle dove perdo 10 anni di vita. Adesso aspettiamo anche di riprendere Nicola Rossi. Qua. Eccoci, mi scusi, prego. Sì, dicevo, la mia sensazione è che la politica non abbia proprio nemmeno più l'autorevolezza per imporre delle regole a se stesse, per cui quando a un certo punto gli assessori di Roma protestano che devono essere 15 invece che 12, la politica non ha quella forza, quello scatto di orgoglio che gli fa dire 12 sono più che sufficienti, diciamo. Ecco, va detto che nella modifica al milleproroghe per fortuna è scomparsa quella norma che portava gli assessori da 12 a 15 a Roma soprattutto, ma per ora, perché poi devo andare alla Camera di nuovo, da 12 a 15 per le città sopra 1 milione di abitanti, ed è stato eliminato anche il divieto di abbattere fino al 31 dicembre le case abusive in Campania, anche quelle nelle zone archeologiche, cioè in questo caso non c'è più il divieto. Ma leggo molti sms, senatore Rossi, su questo, e dicono, ma insomma, alla fine nessuno è perfetto, diversi, noi critichiamo gli evasori fiscali come l'inefficienza della pubblica amministrazione, ci mancherebbe, però quello che sorprende non è solo l'incapacità di darsi una regola, di stringere un po' la cinghia, è il non capire che con la con la situazione attuale, in questo momento, in realtà c'è un rischio fortissimo che venga buttato via il bambino con l'acqua sporca. Mi spiego, se non c'è un segnale forte che arriva dalla politica, poi è difficile anche distinguere, anche per noi, il politico che fa il suo lavoro e mantiene da questo punto di vista un atteggiamento corretto, etico nei confronti dell'elettore, e il politico che invece così non fa. Come mai non capisce un sistema quando o si riforma o è a rischio di saltare per aria? Beh, perché a un certo punto, come dire, i sistemi si ossificano, per così dire, cioè diventano incapaci, vedono, ma diventano incapaci di reagire agli stimoli. Qui in questo caso, diciamo, è abbastanza evidente, ripeto, che non ci si renda conto che così la situazione è abbastanza intenibile. Del resto, ripeto, lo vede proprio nella voracità della politica. La politica crea società miste, crea spesso e volentieri enti che non avrebbero fare quello che gli si assegna di fare, occupa tutti gli spazi proprio perché non è più in grado di fermarsi e non ha la forza per imporre a se stessa dei limiti. È un problema serio, perché noi poi di politica abbiamo bisogno. Nessuno lo mette in dubbio. Un'altra domanda che vedo arrivare con una certa frequenza in questi minuti al 349-238-6666 riguarda la prima cifra che abbiamo letto, la stima di oggi appunto della UIL, 1.300.000 persone vivono di politica, non sono eletti, ma vivono di politica. Non sarà, professor Rossi, senatore Rossi, ancora per poco, che si sia formato un corpo sociale, al di là degli eletti, così ampio? Cioè, 1.300.000 persone vogliono dire qualcosa come 4 milioni di persone, se includiamo le famiglie. No, ma aggiungo, veda, quando questo problema diventa serissimo, quando la legge elettorale è quella che è. Perché questo significa che abbiamo nelle regioni, in Parlamento o altro, persone che in realtà sono legate alla situazione in cui si trovano e quindi non riescono ad esprimere quella indipendenza di giudizio che in realtà è assolutamente necessaria per fare il lavoro politico, per farlo bene, diciamo, perché dipendono dalla situazione in cui si trovano. Io sono uno di quelli che pensano che la politica sia una professione che si impara, diciamo. Ma questo è una cosa molto diversa dal dire che non si fa altro che vivere di politica. Io devo anche leggere alcuni messaggi che arrivano da chi lavora nell'amministrazione locale. Ci scrive un sindaco in questo momento, è il sindaco del comune di Pastrengo in provincia di Verona, Mario Rizzi, non ho motivo per dubitarne, poi comunque verifichiamo. Dice che il suo stipendio ammonta a 1.080 euro netti al mese. Smettita di equiparare gli amministratori con i politici, è aumentata la distanza tra noi e la gente che lavora. C'è veramente una casta all'interno della casta, senatore Rossi? No, io, come dire, naturalmente so benissimo che esistono sindaci che fanno un lavoro improbo, consiglieri regionali, consiglieri provinciali, che fanno un lavoro improbo rispetto, diciamo, all'emolumento che ricevono. Su questo non ho proprio dubbi. Il punto però è che loro stessi dovrebbero avere l'intervista più lunga della storia. Va avanti, tanto io sono pieno di dati e faremo concludere anche il senatore Rossi. Vi leggo altri dati, ahimè, visto che volete sapere sui costi della politica, per esempio sull'indennità base annuale per i parlamentari europei. Almeno lì, uno facendo parlamentare in Europa dovrebbe avere costi equiparati, no? Tutti vanno a Strasburgo, tutti vanno a Bruxelles, invece no, perché gli italiani, gli eurodeputati italiani hanno 150.000 euro l'anno, i tedeschi ne hanno di indennità, i tedeschi ne hanno 84.000 di euro l'anno, i francesi 63.000 euro l'anno, gli spagnoli 40.000 euro l'anno e gli ungheresi, pensate, di indennità hanno 10.000 euro l'anno. Senatore Rossi, ce la facciamo? Sì, forse? Speriamo. No, le faccio concludere il ragionamento sulle differenze tra i costi della politica tra vari amministratori, prego. Europei, nel caso dei parlamentari europei sia diciamo abbastanza significativo. Credo che veramente dovremmo proporre seriamente di paragonare la nostra situazione a quella europea e cercare di capire dove e come possiamo adeguarci, ma credo che la politica, se vuole salvare se stessa, debba prendere il problema molto più seriamente di quanto non fa oggi. Però mi permetta di concludere. Ma perché lei se ne va? Perché se ne va lei? Io me l'ho detto, io mi sento un nominato con questa legge elettorale e francamente non riesco a esprimere le cose che penso, diciamo, come vorrei, proprio perché mi sento un nominato. In bocca al lupo però, perché a questo punto ha detto un affare il professore, ripeto, ma le danno, la fanno andare via, perché sembra quasi che non la vogliono far andare via dal Senato. Questo non lo so, dipende dal... Quindi, finché non l'Aula del Senato non lo vota, io sono qui, diciamo. Ma con tutti i politici che vogliono mandare via uno che se manda via da solo non votano, no, vabbè, glielo dico senatore, comunque in bocca al lupo, tornerà a fare il docente, immagino, scriverebbe la prossima volta, spero in un collegamento migliore, l'unica cosa che posso augurarmi. Grazie all'ancora senatore per poco Nicola Rossi, senatore del PD. Vedo ancora messaggi sulle cifre, non posso ripetere tutte, torneremo sul tema. Chiedo scusa anch'io per la qualità dell'intervista, obiettivamente c'erano delle difficoltà di collegamento. Volete la chiusura finale di Milano, ve la do volentieri, più 1,83%, la migliore Milano, e come va Wall Street, più 0,47%. Siamo veramente in conclusione, come sentite dalla sigla, a me non resta che ringraziare anche questa settimana Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Augurare a voi in ascolto una buona serata e un buon fine settimana. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.